I criteri con cui Signore Dio si è organizzato il lavoro nei primi sei giorni della creazione risultano abbastanza chiari fino al quinto giorno. Comincia col dividere la luce dalle tenebre, ci dorme sopra e prosegue dividendo le acque di sopra che poi saranno il cielo, e le acque di sotto, ci dorme sopra e prosegue dividendo le acque dalla terra, e siamo al terzo giorno. Ci dorme sopra e poi fa il sole e la luna e le stelle. Deve arrivare a sera stanco morto, deve dormire maluccio, perché il mattino dopo comincia dai serpenti, proseguendo poi con vari altri animali. È il quinto giorno e qualcosa deve essergli andato storto, perché il giorno dopo allora ricomincia fra qualche altri animali, ecco, e fra questi altri animali, spunta l'uomo che sul momento è al contempo maschio e femmina. Il settimo giorno si sa. Anni dopo, la mattina del 14 luglio del 1948, c'è l'attentato a Togliatti. Come noto, noi tutti siamo l'esito di un ripensamento. Preso dalla smania di dividere questo e quest'altro, Signore di Dio guarda l'uomo e ci ripensa. Aspetta che si addormenti, gli cava una costola e con questa fa Eva. L'unica spiegazione che conosco del perché la costola, e non, che so, un pezzo di pancreas, un capello, l'unghia dell'alluce, beh, o qualsiasi altra cosa, è quella di San Tommaso d'Aquino. Anni dopo, quella mattina del 14 luglio del 1948, anche l'equipe di chirurghi al Policlinico Umberto I di Roma, per recuperare i tre proiettili dal tronco di Togliatti, deve tagliar via un pezzo di costola. Pezzo di costola che non darà vita a nessuna compagna, ma che non verrà buttato via. Finisce in un cassetto a casa di uno dei chirurghi fino al 1954. Poi, quando questi va a insegnare a Perugia, se lo porta dietro. Tempo dopo lo regala ad un frate francescano del convento di Monteripido con la raccomandazione di farne tesoro. Fatto sta che la costola del segretario politico del Partito Comunista Italiano finisce tra le sante reliquie offerte alla devozione dei fedeli, dove credo sta ancora adesso, quando la vicenda più o meno intera è venuta alla luce. Così come il pellegrino incauto può trovarsi a pregare di fronte ad un osso di Togliatti che di miracoli ne ha fatti già pochini per i comunisti, figuriamoci poi per i non, così il lettore della Bibbia può trovarsi di fronte a sconcertanti capovolgimenti delle proprie convinzioni. D'altronde è chiaro che in quel quinto giorno deve essere successo qualcosa. Non sapevo che a dipanare la questione ci si era provato l'imprudente domenicano Giordano Bruno, che peraltro nel cercarsi guai non sempre necessari era un maestro. Lo apprendo da una lettera che un certo Caspar Schopp scrive da Roma ad un amico nello stesso 17 febbraio del 1600, in cui Giordano Bruno venne bruciato vivo in Campo dei Fiori per ordine del Tribunale dell'Inquisizione. Questo shop cerca di spiegare a se stesso, e all'amico perché si sia giunti ad un atto di tale ferocia, no? E fra l'altro ricorda scandalizzato che Bruno è stato autore di un libro intitolato De Umbris et Ideis, L'ombra delle idee, scritto nel 1582, libro in cui a suo dire si sostengono tesi aberranti, fra cui la tesi che solo gli ebrei hanno origine da Adamo ed Eva, mentre tutti gli altri sarebbero la discendenza di altri due, rimasti anonimi, creati da Dio il giorno prima. Anche altri attribuiscono a Bruno questa tesi, ma con ciò che è detto e scritto lontano da noi, a maggior ragione se oggetto di forti contrasti ideologici già al tempo suo, non c'è mai da fidarsi. Qualcuno, per esempio, ha creduto che Bruno sia stato mandato a rogo per aver scritto nel 1584 lo spaccio della bestia trionfante. In una lettera di John Toland, una lettera del 1709, si sostiene che la bestia in questione, lo spaccio della bestia trionfante, beh, si sostiene che la bestia in questione sia ogni religione rivelata e che il libro le mette in ridicolo, rigettandole tutte senza cerimonia e senza eccezioni. Al che si comprenderebbe poi l'atteggiamento della Santa Inquisizione, ma leggo l'analisi odierna del medesimo libro, sempre dello stesso spaccio della bestia trionfante, nel dizionario delle opere filosofiche di Franco Volpi, e vengo a sapere che invece questo libro, muovendo da un'allegoria dei vizi del suo tempo, in questo libro Bruno proponeva una critica e una riforma dell'etica cristiana, di quella cattolica, ma soprattutto di quella riformata, e che lo spaccio in questione, l'oggetto della sua polemica, riguarda i vizi che predominano e sogliono conculcare la parte divina dell'essere umano. Tutto il contrario, insomma. Ci manca poco che le sue ceneri vengano recuperate e offerte alla devozione dei fedeli o che il rogo stesso non sia mai stato acceso. Una tesi che peraltro ha già avuto i suoi sostenitori, visto che un tal Deduy nel 1885 a Parigi ha pubblicato un libro irresponsabilmente intitolato La légende tragique de Giordano Bruno, comment elle a été formée, son origine suspecte, son invraisemblance. La leggenda tragica di Giordano Bruno, come è stata formata, la sua origine sospetta, la sua inverosimiglianza. Non senza la responsabilità e l'utile di qualcuno, spesso con il tempo le parole diventano opache come ossa. Si crede che abbiano avuto un significato, ma ne hanno avuto un altro. Si crede di implorare una grazia ad un santo, ma la si sta chiedendo ad un osso di Togliatti. Perché, signore Dio, fra il tanto ben di Dio a disposizione, sceglie proprio la costola. Per problemi ideologici. Lo dice San Tommaso, allora chi spiega che, ecco, se Dio avesse scelto una frattaglia qualsiasi in alto, Dio non voglia, Eva sarebbe sembrata superiore al maschio. Mentre se Dio avesse scelto in basso, viceversa, sarebbe sembrata inferiore. Non poteva sapere il disastro che Eva stava per combinare con il serpente, e pertanto neppure di lì a poche ore si fa per dire, che incavolato nero, alle svalorizzazioni di Eva non avrebbe più posto alcun limite.